Ignazio partì senza sapere di essere l'ultimo. Se ne andò sul mare dove non occorreva più vivere in terra. Nel paese natio si dimenticarono di lui e di tutti i suoi discendenti. Si ricambiarono dimenticando gli avi, il lavoro nei campi e i tempi bui. Il segno primitivo sopravvive inconsapevole nei nomi dei partenti che si ripetono, ma l'origine scritta sul colmo del fienile è un ricordo andato perduto nello sferzare degli eventi. Come un torrente si butta nel fiume e poi questo nel mare, così la storia di una famiglia si confonde con la storia del mondo. Ognuno vive per sé, ma la sua vita allaga attorno. E nel proprio secchio ciascuno ha un dito d'acqua da portare. E così sono passate le stagioni, e simili alle foglie dei nostri alberi, tanti sono volati verso una nuova terra, così fertile da non doverla più coltivare. Si direbbe che la ricchezza ci ha decimati, peggio della miseria e della guerra. Fienile antico che fu di tutti e ora solennemente custodita la memoria, nei vecchi attrezzi da lavoro, nei resti sacri della guerra e della miseria. Osserva le reliquie di un'epoca, assomigliano a rami storti protesi verso l'umanità, così come la famiglia sembra una bambina dalle braccia forti che allunga le mani ignara verso l'eternità.